Nel mezzo del cammino non era un sogno fra. Stavo in mezzo al cemento tra i demoni della città. Una selva sima d'asfalto dove il sole non passa mai. Nel mezzo del cammino ho perso la traccia. Ogni passo un inganno, la vita ti scaccia. La strada dritta nascosta da nebbia. Cerchi luce, trovi solo sabbia. Selva oscura, frate, non c'è via d'uscita. Paura addosso come cicatrice mai guarita. Aspre dura come un'iniezione lenta. E il cuore che batte ma la testa si spenta. Nel buio mostri, li vedo davvero. Non è un film, è il mio sentiero. Dormivo in piedi, la stanchezza è legge. I sogni ciechi, la speranza regge. Poi in fondo vedo un colle che brilla. Ma il passato mi tiene come una trappola molla. L'onza in mezzo, movenze da regina. Bella e finta come la lussuria assassina. La linciavi col pensiero ignorante, lo so. E poi il leone, sguardo da boss. Ringhia fame, la superbia ti morde. E il suono del petto rimbomba forte. Arriva la lupa sottile affamata. Ti guarda e ti spoglia, mente incatenata. Avarizia secca ti svuota le tasche. Ti lascia nudo con mille maschere. Hey, selva scura, strappa la pelle ma non la mia natura. Dammi il fuoco per risalire. Fammi sbattere ma fammi capire. Non mi porti via, non mi spezzi il cuore. Anche nel buio sento l'onore. Tremo ancora ma sto in piedi. Che la mia rabbia, frate, tu non la vedi. Tra silenzi e passi lenti compare un'ombra a occhi ardenti. Non sono uomo ma lo fui. Voce bassa parla e non sfuggi. Virgilio, vecchia scuola rispetto. Dice vuoi salvarmi il petto. Quella bestia non la vince a parole. Serve coraggio, cuore e sole. Col veltro salvi la scena. Ma serve fede, frate, non catena. Studia Dante poi rispondi con stile. Né oro né argento la sazia. D'amore e volontà. Seguimi, mi fa. Non c'è più tempo. Laggiù si piange senza vento. Vedrai l'inferno, le sue urla secche. Anime in fila, catene strette. E chi ancora aspetta, spera che arrivi l'alba vera. Selva. E se tremo è solo prima che esploda la voce. E io li tenni retro. Frate, io non.